Oggi sono 100 giorni che Radio 24 trasmette la rubrica Il Paese Sommerso, storie di ordinaria evasione fiscale. La rubrica è un contributo affinché vengano accesi i riflettori su una realtà scomoda. Quasi un terzo dell'economia in Italia sfugge al fisco, una percentuale troppo elevata, insopportabile in momenti di forte crisi come quelli attuali. Non è più possibile che l'Italia dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e degli imprenditori corretti accetti di pagare aliquote fiscali record, mentre una larga parte degli italiani paga molto, molto meno del dovuto. Per questo Radio 24 ha avviato nel settembre scorso la rubrica che racconta il paese sommerso e oggi, 100 giorni dopo, prende nota con assoluta soddisfazione che la lotta contro gli evasori fiscali è condotta con impegno dal governo Monti, con iniziative anche clamorose e risultati importanti. Ma l'obiettivo di battere l'evasione è ancora lontano e occorre fare di più. Il traguardo da raggiungere può essere riassunto in una battuta: pagare tutti, pagare meno. Nel frattempo, la rubrica sul paese sommerso continuerà e Radio 24 apre un nuovo fronte. Le risorse ottenute dalla lotta contro l'evasione fiscale vanno utilizzate per ridurre le aliquote fiscali tra le più elevate a livello internazionale.